I nostri diritti come lavoratrici erano violati in continuazione per tutti i responsabili, inclusivi Federico Gatti, che è stato il responsabile che abbiamo poi, c'è stato poi là il processo. A un certo punto, d'accordo con il sindacato Sicova, siamo ricorsi a quel sindacato e ci ha appoggiato nel fare una protesta fuori dal magazzino per cercare di rimediare e arrivare a un accordo per migliorare tutte le nostre condizioni. Da lì è partito questo sciopero che è durato 2 giorni. Dopodiché tutto il resto, diciamo, è stato sempre le trattative tramite il sindacato. Ormai sono passati credo che quasi quattro anni, adesso ci ritroviamo a... Tu sei una delle persone che è stata denunciata per violenza privata, esatto. Quel giorno non si è fatto, non so. No, in realtà quel giorno noi siamo usciti dal lavoro, abbiamo iniziato a protestare, abbiamo fermato la produzione e siamo stati al di fuori del magazzino. Non c'è stato quel giorno tutto il giorno. Il giorno dopo siamo ritornati, sempre con molti lavoratori del appartenente a Sicovas. Sì, e alla fine hanno chiamato i carabinieri, polizia, e poi alla fine praticamente della giornata, verso pomeriggio, e hanno bloccato un camion, alcuni ragazzi, tutto quanto, e c'è stato un po' l'intervento della polizia, e quindi dopodiché si è dissipato tutto, cioè si è fermato lo sciopero e poi si è arrivato a un accordo che si veniva in prefettura per parlare tutti quanti, per parlare sui fatti della quale noi stavamo protestando. Oggi come lavorate? Diciamo che tante cose sono migliorate, principalmente la paga, sulla busta paga, che era molto povera, e anche i responsabili non ci trattano più come una volta. Giustamente molti ragazzi dei quali avevano scioperato non ci sono più per un motivo o un altro, però noi, quelle che siamo rimasti, continuiamo avanti con i nostri facchinaggio, sì, tempo indeterminato, 8 ore. Secondo voi questo è un processo alle vittime? Sì, secondo me sì, perché io che lavoro, sono una di quelle più vecchie all'interno del lavoro, se non fosse stato per il Sicovas, credo che ancora oggi eravamo nelle stesse condizioni di prima. E non è che è migliorato tutto, però almeno un po' di dignità ce l'abbiamo adesso. Quindi se noi non facevamo quel piccolo sciopero, diciamo, ancora oggi eravamo nelle stesse condizioni e nessuno ci avrebbe ascoltato. È la storia. È un processo a quelle donne o quelle persone che hanno voluto alzare la testa e dire basta. È un processo a quelle persone lì.